Radio Rem. Esto en este programa. Ponderoso. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. It's your time. Welcome. Welcome. Sai che mi fa sentire importante quando dice "esto è imponente programma"? Che ridi, è così? Siamo puntuali. Vai, vai, vai, che iniziamo. Ultimo appuntamento della settimana. Get ready for some fireworks. Oggi è il venerdì, l'11 di febbraio. Ben ritrovati. On the road con Roby D'Antoni, puntuale nelle prossime due ore a portarvi avanti pian pianino. Soprattutto con la buona musica. And now, your favorite DJ. Sono pronto, seduto, pettinato. Ho anche tagliato un po' i capelli. Iniziamo. Flashback. Flashback. Senti, senti che flashback che ti regalo oggi. Si è visto che poi oggi è il venerdì, allora di scena c'è anche l'appuntamento rock con Filippo e Simone Brancato, Rock Revolution, a partire dalle 21.30. Omaggiamo i due con questo classico dei Doors. Mouse. Stars, la voce mitica di Jim Morrison. Che bello che è il disco, eh? Ho regalato subito un bellissimo classico che siamo andati a ripescare indietro nel tempo. Dicevo, quasi ad omaggiare i ragazzi che stasera vi terranno compagnia, Simone e Filippo, con l'appuntamento rock del venerdì sera. Stasera, fra l'altro, ci saranno anche ospiti. Spero di avere Filippo in diretta per pubblicizzare un po' il suo appuntamento di stasera, o quantomeno Simone, così sentiremo proprio dalla loro viva voce chi sarà ospite stasera nell'appuntamento di Rock Revolution alle 21:30. È iniziato intanto On the Road, mettetevi comodi comodi. A malinconia, tutti nell'angolo, tutti che piangono, toccano il fondo come l'Andrea Doria. Chi lavora non tiene dimora, tutti mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bonham. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. E pensare che per Dante è questo nel bel paese, laddove si suona. Per pagare le spese bastava un diploma, non fare la starolicona. Né buttarsi in politica con i curricula presi da Stallerinona. Nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa di caffè di Simona. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Migranti in fuga dal bagnasciuga. E malinconia, terra di santi, subito e sanguisuga. Il paese del sole in pratica, oggi paese dei raggi uva. Non è l'impressione, la situazione più grave di un basso tuba. E chi vuole rimanere, ma come fa? Ha le mani legate come Andromeda. Qua ogni rapporto si complica, come quello di Washington con Teheran. Si peggiora con l'età, ti viene il broncio da Gary Coleman. Metti nella valigia la collera e scappa da malinconia. Se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Vai, che bello che è sto disco, assieme a Tony Hadley degli Spandau Ballet. Non so se le ricordate, gli Spandau Ballet, che hanno fatto tanto sognare la generazione prima della, no, la mia sicuro, prima di qualcuno di voi sicuramente. Quelli che hanno intorno ai 40 anni ricordano benino gli Spandau Ballet, questa voce strepitosa di Tony Hadley, che è ospite di Caparezza in questo bellissimo, io lo trovo bellissimo. Senti che violini, senti. Quasi quasi da San Valentino. Facciamo un attimino di pausa, 2 minuti, poi torneremo ancora insieme. Era Goodbye Malinconia. The Road. Oh, The Road. He is the ace you never thought. He played that much, and now it's more than Night Like This, 17:18, giusto per ricordarvi che siamo rigorosamente in diretta. Questa è CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. C'è Roby D'Antonio con voi anche per oggi, insieme sino alle 19, due orette di On The Road con la musica più bella, tante notizie e la musica soprattutto quella sovraffina, come in questo caso. Vi regalo anche Mario Biondi. You were in my world, and you had a mouth. poca voce, speriamo di recuperare, sai, perché la voce è così come un diesel, più parli più si riscalda e poi viene, più viene fuori. E allora purtroppo ahimè ci sono dei risvolti nel caso delle due giammelline. C'è questa lettera che è affiorata, è del 3 di febbraio, la polizia svizzera l'ha esaminato, Mattias Skep, che poi sarebbe il padre delle giammelline Alessia e Livia, ha scritto di avere ucciso le figlie. L'uomo ha anche anticipato l'intenzione di suicidarsi, si fanno sempre più flebili dunque le speranze di ritrovare le due bimbe. Nella stessa missiva Skeps aveva scritto che le piccole non avevano sofferto e aggiunto: avrei dovuto seguirle anch'io, ma c'è stato un problema. Gli inquirenti della polizia cantonale, dice un comunicato, hanno potuto ottenere 8 lettere inviate dal padre delle giammelline da Bari. 7 di queste contenevano del denaro. L'ottava, che era datata 3 febbraio, contiene una lettera in cui il padre dichiara di aver ucciso le due bambine, di trovarsi a Cerignola e di avere intenzione di suicidarsi. Un portavoce della polizia, la polizia cantonale, ha aggiunto che i corpi delle due bambine dovrebbero presumibilmente trovarsi in Corsica. Naturalmente da prendere con le molle queste notizie, poi vedremo un po' il risvolto di questa ennesima brutta vicenda legata sicuramente a problemi di famiglia, che poi di mezzo ci vanno sempre le bambine, i figli che non hanno nessuna colpa. Va bene, purtroppo c'è da commentare anche queste brutte notizie. Torniamo a far musica, vi regalo Ligabue. Sono stati giorni che hanno lasciato il segno, e stare al mondo già di più un impegno. E adesso giri con in tasca un pugno, nell'altra tasca il tuo rimario. L'impatto con il mondo è sempre forte, per chi vorrebbe solo farne parte. E avere almeno due o tre cose certe, e avere un Dio che si diverte. Ma scegli tu fra botte e rime, e scegli tu fra inizio e fine, e scegli tu, ma scegli tu per primo. E quando canterai la tua canzone, la canterai con tutto il tuo volume, lasciando qualcun altro a commentare che tu devi andare. Sono stati giorni di tempesta e vento, ed era pronto solo chi era pronto. Ma adesso sai a cosa vai incontro, chi non è morto è già più forte. L'impatto con il mondo è sempre duro, per chi lo vede come un posto scuro. Vorrei poterti essere utile davvero, poterti dire che sei al sicuro. Ma scegli tu fra botte e rime, e scegli tu fra inizio e fine, e scegli tu, ma scegli tu per primo. E quando canterai la tua canzone, e te ne fregherai di quanto piove, la urlerai in faccia a chi non vuole e non sa sentire. E quando canterai la tua canzone, la rabbia, l'innocenza e l'illusione, ti toccherà cantare l'emozione che non sa nessuno. Quando canterai la tua canzone, bella, bella, la cantiamo, anche perché quando c'è una canzone del genere l'Italia si trasforma in un grande karaoke, l'ho detto sempre, ed è bello cantare. Come in questo caso, qua c'è un po' di country, senti, senti, chitarra, cappello western, un po' di frange sulla camicia jeans. Bella anche da canticchiare questa canzone, peccato che stasera ho poca voce, sarei divertito a cantarla, mi piace. Something in the Water, Brooke and Fraser. Attenzione, perché c'è una dichiarazione da parte di della Elisabetta Canalis, dice altro che First Lady, la povera Elisabetta al ristorante è costretta a pagare il conto, perché pare che il suo principe azzurro George Clooney sia tanto aperto sentimentalmente quanto restio a mettere mano al portafoglio a pochi giorni da Sanremo. La Canalis dice la sua a proposito di maschi, fa questa intervista alla Cosmopolitan e ammette: l'uomo americano è più dolce, ma a cena ti fa pagare, o quantomeno si divide. La showgirl ormai si divide tra la California e l'Italia, e in quanto alle differenze tra uomini italiani e americani si dice molto ferrata. Il maschio italiano non sa dirti ti amo, ha sempre paura a dirlo, non so se è vero. Stai con uno da dieci anni, ma siamo solo amici. Però l'uomo italiano è molto galante. Tutt'altra cosa l'americano, quanto a sentimenti è più aperto, ma poi quando si tratta di pagare il conto non vuole proprio sentire ragione, non mette mano al portafoglio, o paga la donna o quantomeno si divide. E va bene. Oh, avete voluto la parità? voglio dire. Io mi allontano, vado a rispondere, sono il telefono, intanto vi do un po' di pubblicità. TRM On The Road Flashback. this morning I was feeling fine, but these cats I was banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the paunch of a man drove me berserk. He said captain, I said what? He said captain, I said what? West, where the girls are like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gut full of you and I'm a feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad. He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what you want? Se WhatsApp, che bello che era sul disco, io me lo ricordo perché fu uno dei primi che acquistai in 45, tanto per intenderci quello stile jukebox, non è 45, mini 45 giri. Andava forte questo disco che arrivava dalla Germania, Captain Sensible, Se Captain, Se What. E allora, mamma mia, quante belle, stavo guardando sul nostro monitor la bellezza senza, potremmo dire senza età di Cindy Crawford, perché pensate che alla venera età di 45 anni continua a tenersi molto in forma e soprattutto bella. Negli anni 90 incantava tutti sfilando in passerelle sulle pagine patinate dei magazzini di moda. Oggi che ha 45 anni, fra l'altro li compirà il prossimo 20 di febbraio, adesso mi segno la data perché poi dovrò chiamarla per fare direttamente gli auguri, seduce ancora come allora. C'è stato questo sorta di servizio di servizio fotografico di Andrew McPherson per il magazine Future Clove, che rende onore alla sua elegante bellezza e alle sue forme statuarie. Per Randy Crawford il tempo sembra veramente essersi fermato e l'ex top model sfoggia ancora un fisico mozzafiato. Io lo vedo in foto, è davvero straordinaria. Ha un abitino piccolissimo, un body aderente, stivali sopra il ginocchio, cioè veramente emana sex appeal da tutti i lati e sensualità molto invidiabile anche dalle giovanissime starlette che oggi fanno a gara per farsi notare, perché no, anche per un po' di celebrità farebbero qualsiasi cosa. La Crawford, che ha ammesso di aver utilizzato il Botox come molte sue colleghe, si dichiara aperta a tutte le misure preventive anti-età. Dice che ammette di sentirsi meglio ora rapporto al suo corpo che quando aveva 20 anni, e se tutto vero, io aggiungo, se tutto vero tutto quello che si vede negli scatti, io sono d'accordo con quello che dice lei. Davvero molto molto bella, brava e bella la Crawford. 45 anni, cioè pensate, 45 anni li compirà il 20 di febbraio, davvero molto bello. Adesso siamo anche in video, potete seguirci in streaming all'indirizzo diretta@crmpradio.it. Là troverete anche la finestrella dove richiedere i vostri dischi, oppure potete farlo al 335 5637 251. Potete inviare i vostri messaggi anche tramite il nostro profilo Facebook CRM Happy Radio. Più ne ha più ne metta, potete richiederlo direttamente alla linea telefonica, quella più diretta, 0921 923 292. Potete farlo con i segnali di fumo, inviateci un pacchettino, fate quello che volete. L'importante che in questo pomeriggio, anche in questo pomeriggio del venerdì dell'11 di febbraio, siete con noi su CRM Happy Radio con Robby D'Antoni. Questo è On The Road, ultimo appuntamento settimanale. Poi noi ci ritroveremo lunedì. Lunedì sarà San Valentino e sarà una puntata particolare, perché affronteremo proprio l'argomento amor. Faremo una puntata tutta dedicata alle canzoni d'amore, con tanto di poesie d'amore, tanto di dediche e richieste, come si faceva una volta, no? Per il mio caro amoruccio, da rondine nera a passero solitario. Non so se ricordate come si faceva negli anni 80, no? Con una dedica, ti amo da morire, sei il mio primo pensiero al risveglio. Vendador. Domenica credo ci sia la svolta della Juve di questo campionato, perché c'è il derby d'Italia, l'Inter che non so quante vittorie ha fatto con l'era Leonardo, la Juve invece non so quante sconfitte aveva fatte di fila, e poi c'è stata questa ripartenza da Cagliari, e domenica si annuncia un derby d'Italia davvero infuocato, perché l'Inter se vuole inseguire il Milan deve quantomeno pareggiare, la Juve invece se deve dare una risvolta a questo campionato deve assolutamente vincere. Quindi vedremo un po' come andrà a finire, ditemi la vostra se volete, inviate i vostri messaggi. Domenica come potrebbe andare a finire a Torino? La Juve riuscirà a dare una svolta al campionato, l'Inter invece riuscirà ad inseguire il Milan? Il Milan che effettivamente sta stentando un poco, perché non è approfittato, ha fatto dei pareggi che poteva evitare, poteva chiudere in vittoria quelle partite che erano facili, abbordabili per la sua portata, e invece no, c'è qualcuno che si dice sia stanco, tra tutti questi naturalmente Ibrahimovic, che è la colonna portante di questa squadra. Vedremo, vedremo. E a proposito, l'inno d'Italia. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Lo dico perché una volta lo volevano davvero fare questo come inno. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dolce suonava soltanto per me. Dolce che suona per me. Volare. Occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Dico, l'hanno fatto tutti, ne ci metto pure io. Così avrà pensato la Nannini, no? In questo suo nuovo album ha inserito anche questa versione un po' particolare, un po' più rockettara di Nel blu dipinto di blu, che tanti invece la intendono come Volare. Il titolo esatto di questa canzone è Nel blu dipinto di blu, il vecchio successo di quel grande artista che adesso, mamma mia, sai quando hai quel vuoto di memoria, non ricordi manco come si chiama un artista. Mi dovrei vergognare, mamma. Facciamo un attimino di pausa pubblicità, vado a vergognarmi da una parte e poi torno. Ah, era Modugno, ma perdonate.

Don Mario, e vogliamo che l'interno di posti di culto o di ricreazione venga mantenuto un certo decoro. Questo l'ha spiegato anche al sindaco di Brignano, al Valerio Moro. Il documento condanna quindi ogni atteggiamento e ogni comportamento delle persone di tutte le religioni, di tutte le etnie, di tutte le provenienze che bestemmiano Dio, quale esso sia. Il documento è stato presentato e votato dalla maggioranza, mentre l'opposizione si è astenuta. Non essendo un'ordinanza, però, non sono previste sanzioni per coloro che non rispetteranno il divieto, salvo chiaramente le fiamme dell'inferno. È Don Mario che gli dirà: ora dirai quattro paternoste e quattro Ave Maria e ti devi pentire. Più che mai, porca la miseria, io trovo veramente offensivo anche per chi sta vicino il fatto di sentire bestemmiare, una cosa veramente molto molto, trovo molto volgare e quindi da evitare, esattamente. Segnale orario, poi ancora tanta buona musica. CRM On The Road Flashback. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, you Don't stop the getting out. Lo dico veloce così non si capisce. È chilometrico questo titolo di Michael Jackson, un altro classico ripescato indietro nel tempo, però davvero straordinario, molto bello, molto molto molto molto bello, direi, aggiungerei bellissimo. E allora con me Filippo Brancato, avevo anticipato che probabilmente l'avremmo avuto in diretta per ricordare l'appuntamento di stasera. Allora Filippo, intanto ciao. Buonasera Roberto. Comunque, a posto? Tutto bene. Sta per finire un'altra settimana, fortunatamente. Sarà il weekend, un po' di riposo, un po' di relax. Lo so, ma io noto però che le settimane volano via, è una cosa incredibile. Poi da quando ho riniziato in radio, da 2 settimane già volate via. Incredibile. Ma forse sul lavoro volano un po' meno, quando si è a casa in vacanza sembrano sempre troppo poche. E allora ospite per ricordare, ospite tra parentesi naturalmente, per ricordare l'appuntamento di stasera, perché stasera avrete degli ospiti in diretta. Esattamente, anche questa sera Rock Revolution dalle 21 a mezzanotte, rock and roll su CRMP Radio. Questa settimana avremo un artista molto importante, è un artista italo americano che verrà a trovarci dalla lontana Siracusa. Lui si chiama William Wilson, è un artista che in pochissimo tempo ha ottenuto davvero tantissimi click sul suo canale MySpace, oltre 15.000. È un artista a 360 gradi che suona chitarra, basso, batteria, insomma un sacco di strumenti. E quindi avremo William Wilson in diretta, ospite di Rock Revolution, con una versione unplugged delle sue canzoni più rappresentative. E poi un'intervista telefonica invece con una band di Treviso che si chiamano Sabung, che presenteranno un loro nuovo lavoro molto interessante. Abbiamo pensato bene di far conoscere tutti gli amici che seguono Rock Revolution. Sì, io ti volevo chiedere, ma lui verrà con uno dei suoi strumenti, quindi a questo punto? Probabilmente con una bella chitarra che ho visto sul MySpace, insomma un bel modello, una bella Gibson, insomma uno strumento molto particolare. Perfetto, William Wilson, quindi stasera la Gilson è presente stasera in studio. Tra l'altro noto una somiglianza con, come si chiama l'attore che ha fatto il gladiatore? Bella domanda. Oggi mi sto incartando. Va bene, l'hanno capito. Tanto mandateci un SMS e ce lo fate sapere. Fateci, se non dormo stasera. È uguale, guarda, con quella barba incolta. Molto, molto americano, William. Infatti, chi è per le appassionate, insomma, di questo del cinema, potranno anche scoprire poi in webcam questo cantante. E se effettivamente, come pensiamo noi, c'è questa somiglianza o no, potranno vederlo poi direttamente dalla nostra webcam, perché sarà possibile quindi seguire, oltre che in FM, come sapete benissimo, anche dal nostro sito crmpradio.it tutta la puntata di Rock Revolution, e quindi automaticamente anche gli ospiti che suoneranno per noi in diretta. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento 21:30 da 21, da non perdere, per gli appassionati di rock e non solo, per gli appassionati soprattutto di buona musica dal vivo questa sera. Quindi un in bocca al lupo per stasera, ci sarà Simone con te come al solito. Sì, Simone, Gianni, Ida, tutto lo staff di Rock Revolution, ci saranno anche altri ospiti, insomma una puntata da non perdere anche questa. Perfetto, grazie Robby, buona continuazione. Grazie a te, stasera dalle 21 Rock Revolution, naturalmente su CRMP Radio, potete seguirlo su internet, quindi seguire, vedere, oltre ad ascoltare potete vedere tutto in diretta, in streaming, lo potete fare diretta a @crmpradio.it, potete inviare i vostri messaggi tramite il profilo Facebook, potete anche inviare i vostri SMS al 335-5637-251. Credo che adesso ci sia di mezzo la pubblicità, se non sbaglio, 2 minuti, sì, ci separiamo, poi tornerà ancora On The Road con voi. RM Happy Radio, On The Road. Allora, stiamo perfezionando adesso un collegamento, perché voi lo sapete che noi ci occupiamo sempre degli eventi sportivi, in particolar modo ci occupiamo di rally, almeno nel mio appuntamento, perché anche quest'anno abbiamo intenzione di seguire la Targa Florio, perché ritorna a fiorire, visto che l'anno scorso ha avuto un anno di purgatorio, è entrata nel campionato rally asfalto. Quest'anno ritorna con quello che è il giusto titolo da attribuire a questa bella prova, la gara più antica del mondo, la Targa Florio, e quest'anno avremo un collaboratore per questi eventi, perché seguiremo tutto il campionato, il CIR, il campionato italiano rally, con interviste, cercheremo di commentare assieme a amici che avranno la possibilità o che sicuramente corrono proprio nel campionato. L'anno scorso avete saputo, no? Avevamo Luca Rossetti che ci dava una mano. Quest'anno cercheremo di avere più fonti dove attingere notizie. E con me Eros, pronto? Non lo sento, Eros. Forse ora sì, Eros. Ciao Eros, come va? Ciao, bene. E allora, una delle voci che voi sentirete in questi appuntamenti è Eros Barreca, che mi darà una mano in questi appuntamenti che riguarderanno soprattutto le quattro ruote. Quattro ruote coperte e scoperte, no Eros? Sì, sì. Soprattutto quello che a te piace di più, però, il mondo dei rally. Appassionatissimo di rally. Fra l'altro io so, e lo dico qua apertamente, sei uno dei più forti ai simulatori. E allora Eros, ancora notizie ufficiali a riguardo il CIR non ce ne sono, perché ci sono variazioni per quanto concerne le nuove squadre, è giusto? Sì, c'è stata una smentita di Luca Rossetti, si parlava che avrebbe fatto di nuovo rientro in Abarth, però a quanto pare alla fine lui stesso ha dato una smentita. È molto vicino a Skoda Italia, però ancora lui stesso non si pronuncia. E tu sai che noi siamo molto vicini io ancora non l'ho voluto disturbare, perché so che è in fase di completamento di contratto, quindi aspettiamo un attimino, anche perché il campionato dovrebbe iniziare a marzo, se non vado errato. La prima gara è Ciocco, che rientra. Perfetto. E quindi aspettiamo ancora qualche giorno, poi avremo ufficialmente Luca ai nostri microfoni e vedremo un po' di sapere come è andata a finire. E ci saranno novità, c'è il rientro di Mini Cooper, se non vado errato. Sì, lui ha dichiarato lui stesso che sarebbe molto bello provare questa nuova auto, però ancora penso comunque queste auto resteranno all'estero, quindi nel campionato italiano sicuramente non faranno debutto. lui stesso ancora è, diciamo, in alto mare. Di sicuro nell'italiano abbiamo soltanto Andreucci, che come al solito è stato riconfermato da Pecio Sport. Poi sicuramente a causa della crisi di investimento delle squadre stesse, quest'anno mi sa che vedremo una targa con pochi ufficiali, ecco. Sì, sì, ma io credo che un po' in tutto il campionato ci saranno pochissimi ufficiali, sì. E pochi iscritti anno dopo anno, la crisi si fa sentire anche da quelle parti. E allora, novità a proposito di crisi, ci sono anche nel mondiale, nel WRC. Sì, quest'anno c'è già, diciamo che è appena iniziato, ieri si è conclusa la prima, diciamo, mini giornata, perché si è disputata soltanto una prova di 1,9 km. Questa sera già qualcosa si è delineato sempre di più, ci sono queste nuove vetture che stanno avendo un forte riscontro positivo, e sono queste nuove mini WRC che sono dei mostri, fra l'altro. Sì, sì, sovralimentate turbo, 1.600, quattro ruote motrici, in pratica sono dei mostri veri e propri. Io ho visto i test della Ford, cioè, decollano. Sì, sì, sulla neve proprio, infatti la Ford, come dai test, sta andando fortissimo sulla neve. Io qui davanti ho la classifica ufficiale della prima giornata. Parliamo di quale rally stiamo parlando? Siamo in Svezia, dove c'è stata tanta neve, abbondante neve. E c'è il nostro caro amico Pedersoli che lì fa delle foto e pubblica tutto su Facebook. Ho potuto capire che di neve ce n'era davvero tanta. Ce n'è tanta. E la classifica della prima giornata, dopo le sette speciali, tra l'altro delle speciali lunghine, diciamo, per il mondiale sono nella norma da 20 a 28 km a prova. E abbiamo un nuovo entrato, diciamo, che ancora non si era visto, un certo Östberg che abbiamo perso Eros, ora lo cercheremo di ricontattare Eros, vediamo un po' se riusciamo a ripescarlo. L'abbiamo perso. Va bene, facciamo una cosa, facciamo un disco e poi cercheremo in tutti i modi di ripescare Eros, perché era una cosa appassionante quando ci sono nomi nuovi, soprattutto nei campionati, nell'ambito del campionato, ti fa sempre piacere. Siamo riusciti a ribeccarlo. Siamo riusciti a ribeccare Eros. Eros, pronto? Eros, sì. Sì, sei caduto. Sì. Sei fatto male. E allora, chiudiamo questa questo primo intervento. Era solo per darti anche il battesimo del microfono, in questo caso, questa nuova avventura radiofonica che curerai tu assieme al sottoscritto, questa rubrica del mondo dei rally. Allora, dicevamo, questo nome nuovo, mi dicevi. Sì, questo Östberg, che tra l'altro ancora l'anno scorso, diciamo, non ricordo nemmeno, direi una bugia, se era presente o no nel mondiale. Comunque, con la nuova Fiesta motorizzata dalla Stobart, tra l'altro, diciamo una semi ufficiale del WRC, che ha concluso oggi in prima posizione, staccando l'altro Fordista Hirvonen, che sempre con la Ford Abu Dhabi ufficiale si trova a 14,8 secondi da questo Östberg. Perfetto. Poi abbiamo le Citroen con Solberg, con Peter Solberg, che tra l'altro non è Citroen Total ufficiale, diciamo una seconda casa sempre che sta sponsorizzando, diciamo. Sì, e si trova a 57 secondi. E poi abbiamo un altro Fordista, l'Attuala, a 1 minuto e 10, sempre dal primo, e Enni Solberg a 1 minuto e 20. Perfetto, questa è la classifica dei primi riguardo questo rally di Svezia. Noi sì, naturalmente daremo sempre, noi stiamo iniziando, dicevo, oggi era un po' il battesimo del microfono, però daremo molto più come possiamo dire in questo caso, molto più fiato ai rally nostrani, quelli in Italia, il CIR soprattutto, poi naturalmente anche i rally che si corrono in casa. Inizieremo credo con il primo ronde il 20 di marzo, se non prende una cantonata, può essere? Sì, sì, sì. Il primo ronde, tra l'altro, come anche il primo debutto di questo nuovo ronde, che è il primo ronde di Gioiosa Marea. Noi ci saremo, sì, giusto? Penso proprio di sì. Poi da chi è organizzato? Ma è la scuderia Messina Racing Team in collaborazione con dei piloti locali, tipo Luca Costantino e qualcuno lì della zona di Gioiosa Marea. Certo, noi ancora tutto diciamo da definire. Che c'è la cartina, la tabella tempi, però ancora di elenco iscritti non. Certo, non mi sembra un po' prestino, però sì. Normalmente tu mi insegni, sei un divoratore di rally, quando c'è il primo, soprattutto trattandosi di un ronde, normalmente fanno i boom perché fanno tantissimi iscritti, normalmente dico, poi vedremo un po' se la... Tra l'altro sono i primi rally stagionali, quindi chiunque... Per testare anche l'auto. Per testare, esatto. Esatto, quindi... esatto. Ero, se noi ci saremo. Settimana avremo un altro rally, comunque sì. Poi ne parleremo in certo, futuro. Anche perché mi piacerebbe poi avere qualcuno della scuderia che organizza il rally, li avremo al microfono, cercheremo in tutti i modi di tenere aggiornati i nostri radioascoltatori sportivi con notizie e naturalmente curiosità riguardo questo primo ronde città di Gioiosa Marea. Eros, ti auguro una buona serata. Anche tieniti te, sempre caro. Informato. Tu ora d'oggi innanzi inizierai a rompere le scatole un po' a tutti i nostri amici, perché poi ne abbiamo tantissimi amici facendo parte noi di quella categoria di appassionati. Rally dopo rally conosciamo tantissima gente. Io ho avuto modo di conoscere l'anno scorso il forte pilota della Ford che faceva il campionato asfalto, Pedersoli, che veramente si è dimostrato una persona dolcissima. Sì. Spontanea, si è messo sì, disponibilissima al massimo. Che quest'anno, tra l'altro, non so se qualcuno lo sa, ma ha cambiato vettura. Sì, sì, non più ora con la C4. VRC Magneti Marelli, certo, quindi. Il suo sponsor ufficiale. Va bene, Eros, ci sentiamo allora. Un bacione in bocca serata. Al lupo. Ciao Eros. Grazie, ciao. Grazie Eros. Naturalmente, dicevo, cercheremo in tutti i modi di tenere informati i nostri radioascoltatori, quelli appassionati. Se volete saperne di più, basta chiamarci. Se volete informazione riguardo i vari appuntamenti che ci sono in zona e non solo, fatecelo sapere. Noi cercheremo di informarci in lungo e largo. Adesso ci fermiamo e poi ancora mezz'oretta insieme con On The Road, soprattutto con il sottoscritto che vi terrà compagnia, quindi sino alle 19. Buona serata naturalmente da Roby D'Antoni. Here we go! So far, so far, so far, so far, so far, so far. Che bello questo disco pimpante, allegro, adatto anche all'ora della serata. Magari siete davanti allo specchio che vi state preparando per uscire. Lo so. C'è qualcuno che ha bisogno un po' più di tempo per uscire. No, questa non va bene con questi pantaloni. Togli questa, metti quella. Vediamo questa come va. No, no, questa non va. Ha voglia. No, aspetta che queste scarpe non vanno bene. Devo fare un salutone, perché l'ho sentito poco fa al telefono. Se stavate guardando, oltre a sentire la diretta tramite lo streaming diretta @crmpiradio.it, un carissimo amico che da tempo non sentivo, il saluto deve arrivare fino a Parma, dove fanno il parmigiano, credo il più buono del mondo. Questo è consacrato, perché ho avuto modo di assaggiarlo, è veramente il migliore in assoluto. E lui, fra l'altro, adesso si trova a Parma per lavoro, ma è stato un mio collega tanti anni fa, quando io ho iniziato a fare radio. Lui era il poeta, faceva dei momenti, soprattutto lui ha iniziato con i notturni, no? Faceva quei programmi in notturno con le poesie, tutto o quello che succederà lunedì 14, però lo faremo nel pomeriggio. Lui già lo facevamo tanti anni fa. Santino, un caro amico che adesso si trova col fratello, volevo salutarli. Il saluto deve arrivare, dicevo, sino a Parma. Fa freddo a Parma, santo, fammelo sapere poi com'è il tempo da quelle parti. Spero di riabbracciarti presto. Una canzone me l'ha richiesta e non posso tirarmi indietro. Visita il nuovo sito di CRM Happy Radio, www.crmhappyradio.it. Live streaming, web tv, notizie, anteprime cinematografiche e tanto altro ancora. Every time, every day, CRM, Happy Radio. Sì, quello che vi ho detto io. Poi devo dedicargli la canzone. Devo dedicargli una canzone bellissima. La canzone la metterò dopo. Ti ho fatto il saluto, Santino. La canzone te la dedico dopo, te la mando dopo. Tanto un abbraccio grosso grosso da Cefalù sino a Parma. Crash, land, no illusions, no collision. No intrusion, my imagination run away. I know what I am chasing. I know that this is changing me. I am flying on a star. I know. se li ricordate, qualche annetto fa con Losing My Religion era uno di quei brani che andava, che spaccava la grande. Sono ritornati, nuovo singolo, A Berlin si chiama, 18:44, il Ram su CRM Happy Radio. Ho fatto i saluti a Parma, l'amico Santino, prima mi aveva chiesto la canzone che non avevo avuto modo di suonare, che adesso invece gliela regalerò, la nuova di Gianluca Grignani, si chiama Sei Unica. Vorrei scrivere per te un disco intero. Non è una cosa detta a caso, quel che sento davvero, ma le prime parole che mi vengono da dire sono soltanto queste, tu mi fai impazzire. Dai, dai, dimmi che mi ami. Questo è il titolo del nuovo singolo di Gianluca Grignani, quello di Falco a metà. C'è un nuovo album che sta uscendo, anzi è uscito, un nuovo tour. Bravo Gianluca, bravo bravo, questo ritorno davvero alla grande per Gianluca Grignani. 18:48, 12 minuti e poi saranno i saluti finali. Questo ultimo appuntamento della settimana. Ci ritroveremo poi il lunedì, sarà il lunedì di San Valentine. Allora là dovete sbizzarrirvi al massimo inviando i vostri saluti, le vostre dediche, le vostre richieste alla persona amata. In quel giorno, o se non lo fate in quel giorno, dico, quando lo dovremmo fare? Vi regalo anche Martin Solveig assieme a Dragonette.

you know that people are saying strange things. Tied to the hair, cause I know your face, the face is numb. I don't wanna listen. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down. Let's play the perfect happy clown. You gotta make a mistake. And people are saying strange things, and I don't wanna listen too much, yeah. Nothing but blue sky, blue sky. How can I tell you I know this won't be the last song? I don't wanna listen Sky. Questo è il nome di Jamiroquai. Bravo, che bravo, che bravo. Chiude così l'appuntamento di oggi. Questo nuovo singolo di Jamiroquai, Blue Sky. Noi ci risentiremo ancora lunedì per la giornata degli innamorati, per San Valentino. A questo punto non mi rimane altro da fare che augurarvi un buon weekend. Rimanete sempre su CRM Happy Radio. Da Roby D'Antonio è tutto, vi lascio con la nostra musica che continua. Visto che siamo al venerdì, c'è CRM Happy Pop e poi Freestyle con Isaiago e poi con Filippo Brancato, l'appuntamento Rock Revolution alle 21. È tutto, bye bye, alla prossima, state in gamba!